2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. Di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata dell'1 e 2 marzo 2014. Benvenuti o bentornati a 2024, il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Ogni settimana, assieme ai nostri esperti, i più autorevoli esperti, cerchiamo di capire come la tecnologia ci cambia la vita. E naturalmente cambia non solo la nostra vita nel tempo libero, ma cambia anche la nostra vita al lavoro. Allora, questa settimana abbiamo una puntata che per buona parte sarà dedicata al Mobile World Congress, cioè l'appuntamento più importante che riguarda il mondo della telefonia mobile. E devo dire che oramai, quando parliamo di questo settore si sta allargando, si sta estendendo e sta oramai toccando e coinvolgendo molti altri settori. Non è un caso che il Mobile World Congress, che si è aperto e chiuso questa settimana a Barcellona, stia diventando sempre più grande e sempre più importante. Allora, visto che tra poco incontreremo i nostri esperti, vi farò ascoltare le interviste che abbiamo realizzato questa settimana, iniziamo subito con le nostre Digital News. Digital News. La prima notizia, che non riguarda il Mobile World Congress, riguarda invece il governo italiano, che ha cancellato definitivamente la web tax, che puntava ad imporre l'acquisto di pubblicità online solo da soggetti con partita IVA e quindi con posizione fiscale italiana. Matteo Renzi ha scritto su Twitter che se ne riparlerà in un quadro di normativa europea. E sempre molti esperti hanno detto se qualcosa è possibile farlo, lo si può fare solo a livello europeo. Chi ha proposto la cosiddetta web tax puntava a fare pagare le tasse ai grandi colossi come Google, ma uno degli effetti sarebbe stato invece di danneggiare le centinaia di piccole società italiane che lavorano in ambito pubblicitario online, anche promuovendo i marchi del Made in Italy nel mondo. Ne abbiamo parlato, e questo è uno di quei casi in cui chi ha proposto la legge non conosce il mercato e forse era meglio documentarsi prima di proporre una cosa del genere. Comunque, definitivamente è stata abolita ed eliminata, questa è una buona notizia. Vedremo se il governo si comporterà in modo altrettanto moderno anche quando ci sarà la patata bollente dell'aggiornamento del compenso per coppia privata, e di questo parleremo anche nel corso di questa puntata. Il Parlamento europeo ha approvato il pacchetto di investimenti da 1 miliardo di euro nelle infrastrutture digitali previsto nell'ambito della Connecting Europe Facility, un piano da 33 miliardi diretto a migliorare le infrastrutture e i servizi nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Il commissario Kroes puntava ad investimenti da 9 miliardi e in effetti, vista l'importanza dell'economia digitale, sarebbe stato giusto un investimento di questo genere. Invece, evidentemente anche in Europa sono molti quelli che la pensano alla vecchia maniera, cioè pensano che siano più importanti le vecchie infrastrutture, quelle di cemento, che invece sono sempre meno importanti, e i 9 miliardi sono stati ridotti ad uno solo. Si tratta di investimenti in progetti o in aree dove non investono i privati. Nell'ambito del programma di ricerca Horizon 2020, l'Unione Europea mette a disposizione 85 milioni di euro di fondi per il 2014 per progetti di cyber security. Da qui al 2020 l'investimento totale per sviluppare soluzioni che possano garantire un ambiente digitale sicuro ed affidabile in Europa saranno, secondo la Commissione Europea, almeno 500 milioni di euro. Altra notizia che riguarda l'Europa, sono molte le notizie tra le più importanti della settimana che riguardano l'Unione Europea che arrivano da Bruxelles. La Commissione vuole maggiore chiarezza e trasparenza sugli acquisti in-app, i cosiddetti in-app purchase, cioè gli acquisti che si fanno all'interno di un'applicazione installata su smartphone e tablet. Però ci sono meccanismi troppo subdoli e poco chiari, soprattutto nel mondo dei giochi, che inducono agli acquisti, e spesso le vittime, chiamiamole così, sono i bambini che comprano, poi i genitori se ne accorgono alla fine del mese. Allora, proprio per questo la Apple era stata condannata negli Stati Uniti, però, a pagare 32,5 milioni di dollari ai genitori che si erano visti prosciugare dai figli il conto iTunes tramite acquisti in app molto facili. C'è stato il primo grande fallimento nella storia breve dei Bitcoin. MTGOT, una delle principali piattaforme di scambio, una delle borse per lo scambio di questa moneta digitale, ha presentato richiesta di bancarotta presso il Tribunale di Tokyo. La piattaforma denuncia il furto di 850.000 bitcoin per un controvalore di circa 470 milioni di dollari. Mentre si sperimentano nuove tecnologie che aggiornano le velocità di connessione del 4G, la tecnologia LTE o LTE, si continua a progettare il 5G, che potrebbe diventare un servizio commerciale in circa 10 anni, cioè che dice anche prima, ma dubitiamo. Allora, l'Unione Europea ha lanciato un invito all'industria a collaborare per trovare un'intesa su uno standard unico. Bruxelles ha pianificato di investire 700 milioni per la ricerca sul 5G, a cui si aggiungono, secondo le stime dell'Unione Europea, circa 3 miliardi di euro in investimenti da parte delle aziende di telecomunicazioni europee. Allora, prima di parlare della fiera di questa settimana, cioè il Mobile World Congress, il più importante appuntamento per la telefonia mobile, l'ecosistema della mobilità, della tecnologia mobile, vi ricordo che la prossima settimana, a partire dal 6 marzo, ci sarà il Salone dell'Auto di Ginevra. E secondo il Financial Times, almeno 3 case automobilistiche, cioè la Ferrari, la Mercedes e Volvo, presenteranno una propria soluzione con iOS in the car, cioè il sistema operativo della Apple progettato per essere integrato nella piattaforma di informazione e intrattenimento dell'auto, per fare telefonate, usare le mappe, ascoltare una canzone, eccetera, eccetera, anche usando l'interazione con Siri. Secondo Apple, sono 12 le case automobilistiche che nel corso del 2014 lanceranno una soluzione con iOS integrato nel sistema di bordo. Per il momento dovrebbero partire ed esordire queste 3, Ferrari, Mercedes e Volvo. All'inizio dell'anno, a gennaio, al Consumer Electronics Show di Las Vegas, Google aveva annunciato la nascita di un'alleanza per portare Android sulle automobili a partire da quest'anno. Allora, il gruppo di queste aziende che lavorano ad una cosa analoga appunto ad iOS in the car, cioè un sistema operativo per l'automobile, allora questo gruppo si chiama Open Automotive Alliance e ne fanno parte Audi, GM, quindi General Motors, Google, Honda, Hyundai e Nvidia. C'è un evidente rischio per le case automobilistiche, cioè quello di legarsi ad un produttore terzo per un sistema che diventerà sempre più importante nei prossimi anni. E non c'è dubbio che l'innovazione delle auto già oggi arriva per circa l'80% dall'elettronica, questo lo dicono i produttori di automobili, li ho sentiti io con le mie orecchie, soprattutto a Las Vegas, citare questi numeri. Quindi la stragrande maggioranza dell'innovazione arriva dall'elettronica e sicuramente molto vedremo nei prossimi anni. Allora, mentre Apple e Google lavorano per integrare i loro sistemi operativi nell'auto, c'è una terza via che punta a creare una piattaforma trasversale standard per collegare lo smartphone al sistema di intrattenimento di bordo, per mettere i comandi sull'auto ma continuare ad usare intelligenza, quello che chiamiamo computing e connettività dello smartphone. Quindi sono due prospettive diverse. Io entro in auto con il mio smartphone, continuo ad utilizzare tutti i contenuti e tutta la capacità di calcolo, anche la connettività del mio smartphone, ma interagisco però sul cruscotto oppure sul volante, perché magari ci sono i tasti sul cruscotto oppure sul volante, e magari posso anche interagire con la voce parlando all'automobile, ma diciamo però tutta l'intelligenza, tutti i contenuti rimangono sul mio smartphone. Altra prospettiva invece, che è quella che cercheranno di imporre sia Apple che Google, creare un sistema operativo che si installa sull'automobile. Dopodiché, magari certo, dialogherà con lo smartphone, ma l'intelligenza e anche la connettività soprattutto sono sull'automobile. Di questo abbiamo parlato recentemente nella puntata che abbiamo dedicato al Consumer Electronics Show di Las Vegas, e mi sembra una prospettiva molto interessante e anche abbastanza ravvicinata, perché alcuni servizi, soprattutto quelli di informazione, di intrattenimento, arriveranno molto presto nella prossima generazione di automobili. I sistemi operativi stanno diventando un tema importante anche nel settore della telefonia mobile, ed è questa una delle cose di cui abbiamo discusso al Mobile World Congress che si è tenuto questa settimana a Barcellona, che anche per quest'anno e anche per i prossimi 3 anni sarà la Mobile World Capital, la capitale mondiale della telefonia mobile, almeno in questa settimana. Difficilissimo trovare una stanza d'albergo a prezzi normali, tutto schizza alle stelle perché ci sono migliaia di persone che arrivano a Barcellona per conoscere i trend, per parlare con gli operatori, con i protagonisti di questo mercato. E devo dire che oramai questo mercato è sempre più pervasivo, quindi quasi tutti sono in qualche modo coinvolti al settore della mobilità, e pensiamo ad esempio alla cosiddetta Internet of Things, questo trend che di fatto interessa anche la mobilità, visto che molte di queste cose che saranno connesse nei prossimi anni alla rete internet lo sono in modalità remota, quindi utilizzano le onde radio, e se non è wifi è un'onda radio che è stata pagata, e quindi per quello hanno una licenza gli operatori di telefonia mobile. Questa fiera, ricordo, che è organizzata dagli operatori mobili e dalla GSM Association, che ha ancora sede in Europa, in Irlanda, e che stranamente uno potrebbe dire continua a fare questa fiera in Europa quando l'Europa non è più la capitale mondiale della telefonia mobile, perché per quanto riguarda il software quasi tutto è nelle mani, direi buon 99-98% in mano agli americani, perché Apple, Google con Android, Windows Phone, BlackBerry, insomma è tutto, poco altro rimane, è tutto nel Nord America, a parte BlackBerry che è canadese, insomma comunque sono gli americani che guidano per numeri e per tante altre tecnologie. L'Asia che guida, e l'Europa insomma rimane pur sempre un mercato molto ricco e molto importante, ma comunque non è più la vecchia Europa della telefonia mobile. Una delle cose che appaiono molto chiare è che il prezzo di uno smartphone si sta abbassando drasticamente, sarà l'anno degli smartphone low cost, la qualità media sta crescendo e anche il design sta migliorando. Devo dire che passeggiando per la fiera ci si rende conto che quasi tutti gli smartphone sono oltre che uguali, però molto molto belli. Differenziarsi è sempre più difficile, e visto che Apple storicamente è assente dal Mobile World Congress si è parlato molto e quasi solo di Android e degli altri sistemi operativi alternativi. Molta attesa era concentrata sul nuovo Samsung Galaxy S5 a proposito di nuovi terminali. Ladies and gentlemen, the Samsung Galaxy S5. Quella che avete sentito è la voce di J.K. Shin, che è il responsabile della divisione IT Mobile Communication di Samsung. Chi si attendeva un nuovo design e nuove caratteristiche strabilianti è rimasto un po' deluso. Si tratta di un terminale che migliora le caratteristiche dell'S4, è di fatto, guardandolo, uguale, molto simile, cambiano di molto poco le dimensioni, migliora la connettività, c'è un'interessante funzione che utilizza contemporaneamente Wi-Fi ed LTE per raggiungere velocità di download molto elevate, c'è una nuova fotocamera da 16 megapixel, ma continua questo telefono ad avere una scocca di plastica, spesso questa è una caratteristica che viene criticata. Tra le novità c'è questa caratteristica che è impermeabile, una caratteristica sulla quale puntato finora molto soprattutto Sony, e devo dire che Sony ha presentato degli ottimi terminali a Barcellona, sempre molto eleganti, molto belli, e tra le caratteristiche c'è appunto quella di essere impermeabili, cosa che è stata appunto adottata anche da Samsung per l'S5, che ha due nuovi sensori, uno per il battito cardiaco e un rilevatore di impronte digitali, se ne è parlato molto, simile al Touch ID della Apple. Il meccanismo per tracciare insomma l'impronta digitale è un po' diverso, però sostanzialmente questa è la tecnologia. Questo è 2024, ci fermiamo per un minuto, riprendiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Adesso abbiamo il nostro primo ospite di questa puntata. Vi ricordo che tra poco sentiremo anche l'intervista che abbiamo realizzato con Mark Shuttleworth, che è il creatore di Canonical, che pubblica Ubuntu, una delle distribuzioni più famose di Linux, e naturalmente a Barcellona ha parlato in modo ampio di Ubuntu Touch, questo sistema operativo che arriva anche negli smartphone. Ne parleremo tra poco. Allora, a proposito della strategia di Samsung, che potremmo definire un po' meno basata sui fuochi d'artificio, con cose a volte di una utilità discutibili, forse un po' più concreta questa strategia, sentiamo che cosa ne pensa Carolina Milanesi. Carolina Milanesi, lo ricordo, è direttore della ricerca di Kantar. Secondo me la strategia è quella giusta. Ovviamente era una decisione difficile da prendere, perché le aspettative erano talmente alte, ma loro si trovano un po' dove Apple si trova, no? Il fatto che comunque la gente si aspetta sempre di più, e arrivi a un punto dove devi prendere la decisione di o continuare a cercare di creare un telefono che diventa quasi un mostro, no? Incontrollabile, perché cerchi di metterci un po' di tutto, o di dire no, ci fermiamo, guardiamo veramente a qual è il valore che possiamo dare all'utente, e poi cerchiamo di aggiungere valore con una serie di prodotti che si mettono intorno al telefono, che possa essere il tablet, che possa essere un wearable, che possa essere una cuffia per la musica o una tastiera intelligente, qualsiasi cosa, per cercare di creare un ecosistema di prodotti che lega il cliente nel tuo brand, perché questo è quello che deve fare alla fine un venditore per riuscire a essere di successo. Ricordiamo che Samsung ha presentato anche i nuovi Gear, quindi i nuovi smartwatch, questi orologi intelligenti, chiamiamoli così, e anche il nuovo Gear Fit, che è un braccialetto che misura la biometria, la nostra attività, e è anche una sorta di orologio. Ricordiamo che l'S5 arriverà l'11 aprile anche in Italia a 700 euro. Abbiamo parlato poco fa anche di Sony, che a Barcellona ha presentato il nuovo Xperia Z2. Anche questo sarà sul mercato da fine marzo, quindi più o meno nello stesso periodo, a 700 euro. E c'è chi dice che sono due telefoni competitor, e sicuramente Sony continua a puntare molto sugli smartphone, proponendo al mercato smartphone molto eleganti, molto belli, con funzionalità incredibili. C'è chi ha detto e ha scritto che l'Xperia Z2 è lo smartphone più completo attualmente sul mercato. Un'altra delle cose che appaiono evidenti passeggiando per i padiglioni del Mobile World Congress è la moltiplicazione dei produttori di smartphone. Molti sono cinesi, ma non solo. Direi che tutti utilizzano Android, e soprattutto a causa o grazie, dipende dai punti di vista, a questi produttori i prezzi si stanno abbassando. Allora, ricordo che ci sono due grandi nomi cinesi che stanno crescendo come quote di mercato: Lenovo, che ha acquistato da poco Motorola, e sicuramente vedremo cose molto interessanti, perché c'è chi dice, io penso che sarà proprio così il futuro, che Lenovo farà con Motorola quello che è riuscito a fare con ThinkPad e tutta la divisione di computer di IBM, che aveva acquistato da IBM, quindi sfruttare tutta la capacità di produzione, tutta la capacità di economia di scala tipica dei produttori cinesi, ma le competenze, anche il brand americano. In questo caso parliamo di Motorola, perché acquistando Motorola non si è comprato solo un brand, ma anche molta tecnologia e molti aspetti di tecnologia, perché Motorola sono storicamente molto bravi a costruire smartphone, quindi vedremo sicuramente cose interessanti. E poi c'è Huawei, sono sicuramente in forte crescita, e proprio a Barcellona è stata presentata la nuova gamma di prodotti di Huawei. Due tra i principali protagonisti di questo trend, e molti dicono che potrebbero queste aziende erodere quote di mercato, soprattutto a Samsung. Ma è stato interessante vedere come è cresciuto Huawei, parlando di cinesi, dall'anno scorso a quest'anno, non solo nel mercato, ma anche come modo di riprodursi a un evento come Mobile World Congress, e quindi di avere un evento che è stato domenica sera molto forte, molto presente, dove non solo hanno fatto vedere la loro traiettoria nella parte dei telefoni, ma avevano persino uno wearable e anche l'idea di legare quello che è diventato, diciamo, loro forte dal punto di vista di infrastruttura mobile e il telefono e i tablet. Quindi non solo stanno diventando più grandi, ma si stanno anche allargando e a dei prezzi che sono veramente competitivi. Parliamo che di media, parlando dell'Europa, paragoni un device di un telefonino di Huawei a parità di caratteristiche, sei intorno ai 150 euro, quando un venditore di prima fascia è intorno ai 350, quindi una grossa differenza. E incomincia a vedere che la qualità migliora, che l'usabilità migliora, e quindi da un punto di vista di consumatore magari ci penso. Allora, Carolina Milanesi si è raccomandata di chiedere scusa da parte sua per la voce, ma come succede spesso al Mobile World Congress si parla con tante persone e la voce viene messa sicuramente sotto pressione, ma insomma tutto molto chiaro. A proposito di terminali, vi segnalo la nuova versione del russo Yota Phone, scritto con la Y di yogurt, quindi la Yota Phone, molto interessante, direi forse uno dei telefoni, o forse il telefono più interessante che abbiamo visto. Esiste già una versione sul mercato di Yota Phone, ma questo che è stato presentato è molto bello. Allora, si tratta di uno smartphone Android con il display tradizionale sul fronte, ma sul retro c'è un display touch con tecnologia e-ink, che è la stessa tecnologia degli e-book, quindi un display che consuma pochissima energia, che è utile per visualizzare sia documenti di testo, ma anche vedere ad esempio le notifiche che arrivano senza dover consumare molta energia. È sicuramente una tecnologia molto interessante, quindi un telefono double phase, una parte tradizionale con il display a colore, insomma quello classico, e dall'altra parte sul retro questo display con questa tecnologia. Molto molto interessante e molto molto bello. Arriverà entro la fine dell'anno. Adesso c'è l'altra versione che è bruttissima, quindi sicuramente sul design è stato fatto un passo in avanti, ma ripeto, direi che quasi tutti i produttori ormai sul design non sbagliano. È facilissimo fare un telefono, si prende Android, si trova un designer non proprio scadente e si fa un buon telefono. Altro trend che abbiamo visto al Mobile World Congress è un'attenzione alla sicurezza, alla privacy. È stato presentato ad esempio il Black Phone, uno smartphone di fascia alta, parliamo di 630 euro, che punta alla sicurezza e alla protezione della privacy, che si basa su una versione modificata di Android chiamata Private OS. Interessante, si chiama Black Phone, quindi telefono nero. E poi c'è stato, grande attesa anche in questo caso, l'annuncio di Nokia, basato tutto sulla lettera X. Ladies and gentlemen, introducing the new Nokia X and the Nokia X Plus. There they are, ladies and gentlemen. Both of them run Android applications. I nuovi terminali X che saranno sul mercato anche in Italia da questa estate sono smartphone che hanno un sistema operativo basato su Android. Allora, sapete che di Android esiste sia la versione Google Mobile Services, cioè il sistema operativo chiave in mano ma blindato sui servizi di Google, ma che viene utilizzato da quasi tutti i produttori che si basano su Android. Si prende questo sistema operativo già tutto pronto, si va da un produttore che ha le competenze per fare smartphone, si trova un designer abbastanza bravo e si fa un telefono ormai veramente, non dico la portata di tutti, ma la portata di molti, tant'è che i produttori che basano su Android stanno esplodendo, soprattutto in Asia. Ma di Google, di Android c'è anche una versione che si chiama Open Source Platform, che è personalizzabile e sulla quale ha lavorato Nokia, la stessa sulla quale ha lavorato personalizzandola Amazon. Tutti i terminali di Amazon, magari uno non lo sa, ma sono basati su questa versione, su questa piattaforma di Android. Secondo me la cosa più importante da dire è la puntualizzazione che Steven Hillop ha fatto dall'inizio, che questi prodotti non sono prodotti Android, sono prodotti che girano le applicazioni basate su Android. E sembra una sottigliezza, ma è quello veramente il succo di quello che è l'annuncio. Il problema che Nokia aveva non è tanto il discorso del prezzo di dove possono arrivare con il telefonino per sé, con Asha arrivavano già a prezzi interessanti. Il problema è che non avevano un ecosistema forte abbastanza e anche che da un punto di vista di brand, quindi di nome, di marchio, di sistema operativo, molti consumatori nei paesi emergenti vedono soltanto Android e non considerano nient'altro. Quindi questo apre un'opportunità a Nokia di arrivare a questi consumatori. Non è Windows Phone, ma apre l'opportunità a Microsoft di arrivare a clienti a cui non sarebbero sembrati rilevanti con un discorso di Windows Phone. Certo è vero che se guardiamo dal punto di vista dei sistemi operativi, mentre in Europa è chiaramente un discorso di iOS, di Android e di Windows Phone che sta cercando di aggiungere come terzo ecosistema, nei paesi emergenti Android non è uno solo e quindi incomincia a avere esperienze diverse all'interno di Android. Se prendiamo la Cina, per esempio, Xiaomi è stato quel venditore che ha un servizio, un ecosistema aggiunto alternativo a Google, che è quello che sta cercando di fare Nokia. Quindi stiamo parlando di una novità che riguarda soprattutto i paesi emergenti, poco l'Europa, poco l'Italia. Secondo me l'Europa e i paesi europei sarà molto, molto limitato e sarà usato in maniera strategica per arrivare a quei punti di prezzo dove Lumia non c'è ancora. L'Italia è un buon esempio di un paese che, non avendo i sussidi da parte degli operatori, magari vedrà un pochino di più la presenza di X, perché dà il vantaggio all'utente finale, al consumatore, di avere un prodotto che ha una buona qualità prezzo. Certo, perché ricordiamo che nei mercati, e l'Italia appunto come tu dicevi è un buon esempio, dove gli operatori telefonici non sussidiano, quindi non si sostituiscono per il prezzo finale al consumatore, il consumatore vede il vero prezzo del telefono, quindi decide molto in base al telefono, perché appunto se io invece sono l'operatore e do un contributo, chiaramente per il consumatore finale magari sono tutti a 100 euro e quindi io poi scelgo in base ad altri parametri. A proposito di sistemi operativi, qui al Mobile World Congress si parla, come del resto lo scorso anno, molto anche di sistemi operativi alternativi, quasi tutti basati su Linux. Guardiamo Firefox, guardiamo Ubuntu Touch, guardiamo Yola Mobile, insomma ci sono in molti che ci stanno provando. Tu pensi che ci siano delle chance per questi produttori alternativi? Ah, diciamo che l'idea che è incominciata un paio di anni fa, no, per alcuni di questi sistemi operativi, era di creare questa alternativa ad Android in un momento in cui la fascia bassa di Android effettivamente non dava un'esperienza molto ricca al consumatore. Quindi un po' da parte del venditore e un po' da parte dell'operatore mobile si era creata questa idea di dire: cerchiamo di veramente arrivare a uno smartphone di massa per i consumatori a prezzi agevolati che dà però una buona esperienza. La realtà di oggi è molto diversa. Mentre questi sistemi operativi ci stanno ancora provando, creando l'ecosistema, fino adesso l'unico che quantomeno sta vendendo abbastanza bene nei paesi, per esempio nel Sud America, è Firefox. Tizen non abbiamo ancora visto, abbiamo visto l'entrata finalmente dopo 2 anni quasi che ne parliamo di Tizen nella nuova linea degli smartwatch di Samsung, ma non abbiamo ancora visto un telefono. Ubuntu ci sta ancora provando. Yola ha un attimino un approccio diverso, perché non sono andati per il basso prezzo ma per l'alto prezzo, ma anche loro sembrano di adesso avere una tattica di sfruttamento, se vuoi, dell'ecosistema di Android. La realtà è che creare un ecosistema di applicazioni ricco e che riesce a tenere il consumatore legato non è facile, è per quello che siamo arrivati a questa situazione. Sì, a proposito di situazione, visto che voi a Kantar avete anche il polso di quello che accade sul mercato, in attesa di vedere quando arriveranno e come arriveranno molti di questi sistemi operativi alternativi, oggi il mercato è dominato da Android, Windows Phone sta crescendo e poi l'altro protagonista del mercato è iOS di Apple. Qual è la situazione in questo caso, ad esempio, sull'Italia? L'Italia è un paese molto interessante perché con la limitata presenza dei sussidi degli operatori si vede effettivamente che cosa vende. Quindi, come dicevi giustamente tu prima, non c'è l'operatore che sfalsa un attimino qual è l'idea del mercato. E in Italia abbiamo visto proprio i numeri che sono appena usciti della fine dell'anno scorso, quindi del paragone tra il primo trimestre del 2014 e il primo trimestre del 2013, dove in Italia il 17% del mercato ha un telefono Windows Phone oggi. Che è un dato molto elevato rispetto al resto dell'Europa. Sì, l'Europa va meglio di altri paesi in generale, ma sicuramente l'Italia è il paese dove la parte di Windows è più forte, perché senza i sussidi, quando tu vedi un telefono come il Lumia 520, ti è chiaro che c'è una buona qualità-prezzo come rapporto, e che anche come sistema operativo, anche se non hai tutte le applicazioni che ha iOS e Android, le applicazioni che ha sono fatte bene, sono create con una certa ricchezza. Gli altri sistemi operativi come vanno? Abbiamo Android che segue, diciamo, come negli altri mercati al primo posto, con un mercato appena al di sotto del 70%, 67% del mercato, e iOS che è appena al di sotto del 13%. Fanalino di coda è adesso BlackBerry con meno del 3% del mercato. Questa era Carolina Milanesi, che è responsabile della ricerca all'interno di Kantar, una società di ricerche internazionale. Il ruolo preciso di Carolina Milanesi è Director of Insight, ma lo traduciamo molto più semplicemente con responsabile delle ricerche a livello mondiale sul settore dell'elettronica di consumo. Naturalmente il settore degli smartphone è molto importante. Buona parte della chiacchierata che abbiamo realizzato ve l'abbiamo proposta solo per questa che state ascoltando, che è la nostra versione podcast. Quindi ringrazio tutti i nostri ascoltatori che hanno capito l'importanza e i vantaggi anche di scaricare questa nostra puntata speciale versione digitale, dove ci sono più contenuti quasi sempre, non sempre, ma più contenuti rispetto a quello che va in onda in FM o in digital radio sulle nostre frequenze. Questo è 2024, ci fermiamo per pochi secondi, riprendiamo tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, non dimenticate il nostro indirizzo di posta elettronica 2024 scritto in cifra 2024 e radio24.it. Alla parte tecnica in questa puntata, in questo weekend, c'è Roberto Scaltritti, ringraziamo anche Anita Panizza che ci aiuta in redazione durante la settimana. Abbiamo incontrato durante il Mobile World Congress di Barcellona Mark Shuttleworth, per alcuni forse più famoso per essere stato uno dei pochi turisti spaziali che ha speso circa 20 milioni di dollari per andare sulla stazione spaziale internazionale con una Soyuz, ma per altri invece è molto più famoso per Ubuntu, per il sistema operativo basato su Linux, cioè una delle distribuzioni più popolari di Linux. Mark Shuttleworth ha fondato Canonical e Canonical sviluppa appunto Ubuntu. Ubuntu si sta trasformando anche in un sistema operativo per smartphone. E allora abbiamo chiesto a Mark Shuttleworth di spiegarci quando arriverà, quali sono i primi terminali che erano stati annunciati poco prima del Mobile World Congress. Yes, so we announced the first two Ubuntu smartphone manufacturers. They are a European company, BQ. Sì, abbiamo annunciato i primi due produttori di smartphone Ubuntu. E sono BQ, una società europea che è stata bravissima a inserirsi sul mercato con smartphone speciali, rispondendo a esigenze particolari. E la cinese Meizu, altrettanto vincente nel costruire una realtà solida e in rapida crescita. Entrambe sono produttrici di smartphone di fascia alta. E questo aspetto è cruciale perché vogliamo fare il nostro ingresso sul mercato con questo tipo di prodotti, offrendo un'esperienza di qualità e introducendo il concetto del personal computing da tasca. We have this core vision of convergence, the idea that the only true computer you need to carry, or that you will only carry one true computer, and that computer will then use the screens around you to give you a phone experience or a tablet experience. Per noi è fondamentale la visione di convergenza. L'idea che si debba portare con sé un unico computer, che poi utilizzerà gli schermi e i dispositivi attorno all'utente per fornire di volta in volta le funzioni di telefono, tablet, TV, controllo dell'auto e così via. Quindi ciò che è molto importante è avere un cervello centrale molto intelligente, che sia in grado di fornire tutte queste funzioni, dal tablet al telefono, dalla TV all'automobile. E pensiamo che queste due società capiscano e condividano questa nostra visione. Sono ribelli, sanno come attaccare i big del settore e per noi saranno dei partner eccezionali. Tra le tante domande che ho fatto a Mark Shuttleworth in questa chiacchierata molto piacevole che abbiamo fatto, molto lunga, in cui abbiamo selezionato la parte più interessante, c'è quale spazio può avere e quali possibilità può avere Ubuntu, ma in generale un sistema alternativo a quelli che oggi sono presenti nel mercato, nel settore della telefonia mobile. Ubuntu is all about bringing a new way of thinking about software to everybody. You know, the open source software, free software, has come to dominate every aspect of computing that people don't touch. La missione di Ubuntu è sempre stata quella di far pensare al software in un modo nuovo. Il software open source, libero e gratuito, vanta oggi il primato su tutte le componenti informatiche che gli utenti non possono toccare con mano. The biggest supercomputers in the world, they run Ubuntu. Certainly almost all the supercomputers in the world run Linux. Così i supercomputer nel mondo funzionano con Ubuntu o comunque con Linux. La maggior parte dei dispositivi presenti nelle case collegati alla rete hanno Linux come sistema operativo, quindi un software open source. Con Ubuntu vorremmo portare tutto ciò al consumatore finale. To the human consumer. The phone industry is really interesting because, as you say, it's a few giant companies, you know, Apple, Google, Samsung. L'industria della telefonia mobile è piuttosto interessante. Ci sono poche e grandi società come Apple, Google, Samsung. What's interesting for me is that if you go back just 5 years, it wasn't those names. Quello che trovo interessante è che se pensiamo a com'era il settore solo 5 anni fa, questi nomi non c'erano. Crediamo sempre che nei mercati chiave, sia quello dei PC o degli smartphone, l'evoluzione non si possa fermare e che nulla possa cambiare, e dunque che non ci siano opportunità per i nuovi soggetti che vogliano entrare. Ma gli attuali leader hanno rivoluzionato il mercato e preso il sopravvento su altre grandi società. The current leaders all disrupted the market and, you know, took over from very strong companies, right? E noi pensiamo che questo possa accadere ancora. So we think the same will happen again. Se ciò non si verificasse, allora non ci sarebbero nuove opportunità e gli smartphone di oggi saranno gli stessi nel futuro. Ma noi non crediamo che le cose andranno così. Crediamo che gli smartphone che abbiamo oggi in tasca siano solo un tassello verso il reale obiettivo che è la convergenza. The smartphone that you have in your pocket today is just a stepping stone to the real story, which is convergence. The idea that you'll carry around in your pocket the brain of your personal computing. You'll never take it out of your pocket. L'idea cioè che uno si porterà in tasca il cervello centrale e che questo sia in grado, senza bisogno di tirarlo fuori, di trasformare un piccolo pezzo di vetro in un telefono, un altro pezzo di vetro un po' più grande in un tablet, un pezzo di vetro con tastiere e mouse in un PC, perché il cuore del proprio personal computing sarà tascabile. The pocket computer. Quando usciranno questi nuovi smartphone? La prima generazione di questi smartphone uscirà nel terzo trimestre del 2014. Saranno telefoni di fascia alta, con design raffinato, processore veloce, ottimo display. Insomma, non saranno oggetti di bassa gamma. And they will primarily go to enterprises who have a very strong security focus, because Ubuntu is much more secure than many other of the current mobile operating systems. Verranno acquistati soprattutto dalle imprese, che solitamente sono molto attente alla sicurezza, visto che Ubuntu è molto più sicuro degli altri sistemi operativi attualmente presenti sui dispositivi mobili. So they will go to enterprises and they'll also go to enthusiasts, developers, people who are very passionate about the phone. Questi telefoni sono pensati anche per gli appassionati o gli sviluppatori che apprezzano ciò che stiamo facendo, mentre il resto del mercato verrà raggiunto a partire dal 2015. Altra questione molto importante e determinante per il mercato degli smartphone: oggi quando acquistiamo un terminale di fatto acquistiamo un accesso ad una serie di servizi. Pensate sia al mondo Apple sia al mondo Android e di Google. dietro ci sono tutta una serie di servizi, il negozio online per prendere le applicazioni, lo spazio per archiviare i nostri documenti, eccetera, eccetera. Allora, come può fare una società che entra in questo mercato a creare un'alternativa anche per quanto riguarda tutti questi servizi? Non è mica tanto facile. I think that's exactly the interesting question, because the value of the phone now is very much as a gateway to that ecosystem of services. Questo è proprio un punto interessante. Il valore di un dispositivo oggi è proprio la porta d'ingresso in uno di questi ecosistemi. Noi siamo partner di diversi fornitori di servizi. Google lega l'utente al suo sistema ed è piuttosto difficile usare Android senza essere legati a Google. Ubuntu invece è una piattaforma aperta. Whereas with Ubuntu as a more open platform, you will have the choice of more service providers. Possono scegliere vari fornitori di servizi, ad esempio uno per la gestione del calendario, un altro per la rubrica e così via. È interessante anche per gli operatori telefonici, perché pure loro vogliono avere la possibilità di offrire vari servizi. Così abbiamo fatto in modo che fosse molto semplice per gli operatori mostrare i contenuti e i servizi che offrono, senza ingabbiare l'utente al sistema, in modo molto elegante. But the carrier can present their services in a very elegant way on Ubuntu. Allora, sentite come risponde Mark Shuttleworth alla domanda sul come verrà distribuito questo software, perché sapete, insomma, le distribuzioni di Linux sono gratuite. In questo caso ho detto, ma anche in questo caso sarà gratuita la distribuzione, quindi come guadagnate? No, it's a little old fashioned. We charge a small amount of money. Oh no, questa è un'idea un po' retro. Noi in realtà facciamo pagare al produttore un piccolo importo per ogni dispositivo che adotta Ubuntu e in cambio forniamo gli aggiornamenti della piattaforma. Il telefono, insomma, non diventa mai obsoleto. Chi compra un telefono oggi può contare su aggiornamenti di Ubuntu per 2 anni. So that's very different to in Android, where each manufacturer has to provide those updates separately. Questo è molto diverso dal mondo Android, dove ogni produttore separatamente deve fornire l'aggiornamento. We deliver those updates to every device automatically as a standard part of the service, and so that's what we charge the manufacturers for. E questo sicuramente è un punto di debolezza dell'ecosistema Android, perché ci sono produttori che hanno gli aggiornamenti molto presto e quindi chi compra quel prodotto può avere l'aggiornamento subito, altri prodotti che magari ce l'hanno un po' in ritardo o addirittura prodotti di fascia medio-bassa che gli aggiornamenti non ce li hanno mai. E pensate quanto è importante l'aggiornamento anche soltanto in termini di sicurezza, oltre che di nuove caratteristiche e di novità in generale sul software. Quindi sicuramente questo è un punto, cioè la frammentazione di Android è sempre stata molto criticata. Dalla parte opposta sta invece Apple, che controlla tutta la catena sia del software sia dell'hardware, che quindi fornisce a tutti l'aggiornamento del sistema operativo. Quello che dice Mark Shuttleworth quindi è sicuramente molto interessante. Ultima domanda sull'innovazione. Allora, io sono un grande sostenitore del fatto che nel settore della telefonia mobile l'innovazione negli ultimi mesi, ma direi negli ultimi anni, è stata molto molto poca. Sentiamo il suo parere. Penso che sia corretto. Naturalmente è possibile citare dei casi di piccole innovazioni in vari prodotti, ma quell'innovazione di rottura che cambia radicalmente il modo di vedere le cose non si è più verificata dall'avvento dell'iPhone nel 2007, quindi un bel po' di tempo fa. Ma la fondamentale disruption, il change in thinking, there hasn't been that since the iPhone, which was 2007. It's a good long time ago. We think that next big disruption is the breaking out of the intelligence of the phone into the pocket computer. Noi crediamo che la prossima grande rottura consisterà nel boom del computer da tasca, un'intelligenza portatile che controllerà vari oggetti, rendendoli di volta in volta un telefono, un tablet, eccetera. E nessuno ha ancora realizzato questa convergenza, come la chiamiamo noi. E questa sarà la prossima fondamentale rivoluzione. But we think that's the next fundamental transition. E questa è una visione di come si trasformerà il mondo della telefonia mobile secondo Mark Shuttleworth. Bene, questo è 2024, ci fermiamo per un minuto. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Potete raggiungerci anche attraverso Twitter oppure anche attraverso Facebook, cercate Enrico Pagliarini oppure 2024. A tra poco. 2024, disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. Chiudiamo questa puntata parlando brevemente e datovi qualche aggiornamento sul compenso per copia privata. Sapete che questo è un meccanismo che impone ai produttori di tecnologia in grado di riprodurre file multimediali, quindi computer, smartphone, hard disk, tutta una serie di altri prodotti, di raccogliere, quindi dai cittadini che quando vanno a acquistare uno di questi prodotti pagano un compenso per copia privata agli autori, ricompensandoli, perché io invece di comprare un'altra canzone, facciamo l'esempio della canzone, faccio una copia di un contenuto che ho già acquistato legalmente. Ci sono molti che sono critici di questo, su questo compenso, ma ci sono anche molti che sono critici sul meccanismo di raccolta. Fatto sta che stiamo parlando di milioni di euro che vengono raccolti ogni anno in Italia e si vorrebbe aumentare questo compenso per coppia privata. Saluto Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale di Dei.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Gianfranco Giardina dirige il magazine digitale di Dei.it e già dall'autunno, già da ottobre, novembre, avevamo deciso di parlare di questo compenso per copia privata, perché è un aspetto molto legato alla tecnologia, cioè l'evoluzione tecnologica porterebbe a pensare che il meccanismo con cui viene raccolto questo compenso per copia privata debba cambiare assieme alla tecnologia. Allora, partiamo brevemente dall'Italia. Diciamo che sull'Italia non c'è nessuna novità negli ultimi tempi, perché a questo punto l'ex ministro Brai aveva deciso con le valigie in mano di non firmare questo adeguamento del compenso per copia privata. A questo punto il dossier passa nelle mani del nuovo ministro. Sì, nelle mani di Dario Franceschini, che dovrà decidere secondo le sue priorità e i suoi tempi, quindi vedremo ancora nulla è trapelato sui progetti del ministro su questo fronte, probabilmente, visto che è così poco che si è insediato, probabilmente non ne ha ancora dei progetti. In ogni caso questo lo vedremo. Di fatto la discussione certo farà tesoro di tutto quanto si è detto e si è fatto in questi mesi, ma in qualche modo riparte da zero. Questo sì. E questo sicuramente è un problema. Allora, mentre noi attendiamo qui in Italia, sperando insomma che il ministro comunque ascolti, come aveva fatto Brai, un po' tutte le voci, un po' tutti i protagonisti del settore in campo, in Europa, proprio questo venerdì, quindi al termine di questa settimana, è stata approvata una risoluzione. Sì, una risoluzione, c'è cioè infatti un rapporto che viene votato poi in Parlamento europeo e diventa come tale una risoluzione, quindi una serie di raccomandazioni che il Parlamento fa alla Commissione europea e agli Stati membri riguardo a un particolare tema, e in questo caso il tema sono precisamente i prelievi per copia privata. Che quindi non ha valore di legge, però non ha valore di legge, non ha neanche valore di direttiva, sì. Però dà delle indicazioni, dà un quadro in cui il Parlamento si esprime e chiede agli Stati membri, per esempio, diciamo che il punto nodale di questo rapporto, noto come rapporto Castex dal nome della relatrice, una parlamentare francese, ovviamente del Parlamento europeo, di nazionalità francese, il nodo è proprio quello di armonizzare, chiede diciamo l'armonizzazione di questi compensi per copia privata. Sappiamo che in questo momento i compensi sono molto diversi da nazione a nazione, in alcune nazioni non esistono affatto, e questo porta più o meno c'è la metà dei paesi europei che la applica. Sì, poi lo applica su alcune fattispecie, non altre. Sì, no? Sì. Di conseguenza succede poi che ci siano dei flussi migratori, diciamo così, degli acquisti da un paese verso l'altro, chiaramente da un paese che non ha compensi verso gli altri paesi, perché in alcuni casi, parlo soprattutto per i supporti CD, DVD, supporti di memoria, l'incidenza di questo compenso è molto alto rispetto al valore del bene, quindi comprando nel paese giusto, tra virgolette, il consumatore riesce a risparmiare percentualmente anche il 100% del valore del bene, quindi è chiaro che si chiede un'armonizzazione, e da questo punto di vista è difficile non essere d'accordo. Certo, cioè, sappiamo certo. che tutto quello che è disarmonico in un mercato unico come l'Europa genera poi dei mostri. Abbiamo visto per esempio con l'introduzione dei compensi per copia privata già negli anni passati, quindi parliamo del 2003, l'adeguamento del 2009, abbiamo visto per esempio negozianti che basavano magari il loro business per esempio sui supporti dover chiudere filiali italiane delle società che producevano supporti, o addirittura le fabbriche di supporti in Italia assolutamente che c'erano, che era molto una bella industria e ha dovuto chiaramente chiudere. Allora, il Parlamento europeo, o meglio, dal Parlamento europeo è arrivato qualche anno fa un'altra indicazione che diceva sostanzialmente i meccanismi che ci sono oggi relativi al compenso per copia privata dovrebbero essere superati dal concetto di licenza. Io compro una canzone, siamo l'esempio sempre della canzone, pago una licenza per poi poter utilizzare quella canzone anche su altri supporti. In questo caso invece questa risoluzione dice una cosa un po' diversa. Sì, come dire, smentisce, ma lo fa anche abbastanza esplicitamente questo Vittorino Report, che è una risoluzione di un anno fa a cui fa riferimento, tu riferimento poco fa, e dice che il meccanismo dei compensi per copia privata prelevati alla fonte sui supporti e sugli apparecchi è ancora l'unica fattispecie percorribile oggi per garantire agli autori il riconoscimento dei loro diritti. Ovviamente io personalmente non sono assolutamente d'accordo su questa visione, ma tant'è, ne prendiamo atto. Vediamo già che sono per certi versi anche in funzione, per esempio sul mondo dell'home video, la cosiddetta digital copy, quindi compro il DVD o il Blu-ray e insieme mi viene data una licenza per scaricare una copia o più copie digitali, quindi già compreso nel prezzo. In alcuni casi c'è un piccolo sovrapprezzo per chi vuole scaricare la copia, quello ci sembra il meccanismo corretto. Deve pagare evidentemente chi copia e deve pagare un compenso che vada presumibilmente o preferibilmente all'autore. Quello lì preciso, copiato, certo. Non allora, un prelievo sì. che poi viene ridistribuito che viene intanto raccolto su base arbitraria e poi ridistribuito su base altrettanto arbitraria. Certo. Tutta questa somma di arbitrarietà non ci piace, in Italia ci piace ancora meno. Esatto, anche perché, per questo che ci tengo a parlare di questi temi, tutto ciò è legato fortemente alla tecnologia, perché la tecnologia oggi permette di individuare precisamente quello che io ascolto e di conseguenza potrei poter pagare una licenza su quel preciso brano o film eccetera eccetera. Ci sarebbe anche un passo intermedio molto interessante. Oggi molto più di prima e sicuramente molto più che sulle basi presuntive su cui vengono fatti i calcoli si sa che cosa viene ascoltato. Cioè, basterebbe fondamentalmente chiedere a Deezer, a Spotify, anche a Apple, YouTube. E vedere che cosa viene ascoltato. Allora, anche ammesso che il prelievo fosse alla fonte come oggi, sarebbe già una buona consolazione per tutti, quindi per chi paga, che vuole anche che giustamente i propri soldi vadano, se devono ricompensare qualcuno, a ricompensare chi se lo merita, potrebbero essere distribuiti sulla base di questi consumi. Quindi si presume che se un brano è il più ascoltato sarà probabilmente anche il più copiato. Certo. Anche perché, siccome la copia deve essere fatta su un contenuto legittimamente posseduto, quindi acquistato, i prodotti più acquistati saranno quelli più copiati. Sì. Ecco, i principi di ridistribuzione, perché stiamo parlando di copie che partono da un contenuto legalmente acquistato, non stiamo parlando di pirateria. No, quella è un'altra fattispecie che esatto. di certo non è ricompensata dal compenso per copia privata e soprattutto non è sanata dal compenso per copia privata. Cioè deve essere chiaro questo concetto. Non è perché pago un compenso per copia privata che su un CDR che posso piratare. Sì. Anzi, non posso neanche fare una copia di un mio contenuto, per esempio, regalarla a te, Enrico. Ecco, questo è una, un per uso personale, per uso copia, personale, sì, assolutamente. Sì. Ecco. Cosa dice ancora questa risoluzione? Allora, innanzitutto chiarisce un punto chiave che pagano i consumatori. Questo è stato ed è ancora nel dibattito un grande punto grigio, no? Molti dicono no, ma tanto i consumatori non devono preoccuparsi di questo, perché i compensi sono applicati alla fonte, quindi li paga l'importatore o produttore del bene, e chiaramente li pagherà abbattendo i propri utili, che qualcuno dice sono altissimi, no? Ecco, il problema è che questi utili, alti o bassi che siano, poi non sta neanche a noi determinarlo, ma mi verrebbe da dire, perdonatemi, ma chi se ne frega se sono alti o bassi. Il concetto è che il rapporto dice espressamente che, leggo, cito, considerando che il prelievo per copie private è pagato dai consumatori al momento dell'acquisto, eccetera, eccetera. Quindi qui smarchiamo un primo punto. Perfetto. Il compenso lo pagano i consumatori, ecco perché ne stiamo parlando anche qui e perché appunto è giusto che la materia sia anche di interesse dell'opinione pubblica, esatto. Non è un fatto tecnico nel mercato B2B. No, anche perché stiamo parlando, ecco questo è un altro punto interessante, di milioni di euro che ogni anno vengono prelevati dalle tasche dei cittadini e finiscono, secondo le regole che ci sono oggi, nelle tasche degli autori, come dire, il meccanismo è chiaro, però stiamo parlando di milioni di euro, quindi è bene insomma che si sappiano queste cose. Ecco, poi prosegue, insomma, è comunque scaricabile dal sito del Parlamento Europeo, sì. Il provvedimento poi lo metteremo anche sul sito di D-Day, magari anche su quello di sì. Radio 24. Ma comunque invita la Commissione a presentare una revisione della legge che di fatto ha istituito a livello europeo questo compenso per copia privata, quindi a rivederla anche per le nuove tecnologie, e definisce che il sistema attuale di prelievo per copia privata sia un sistema virtuoso, quindi che vada bene e vada in qualche modo confermato, che debbano essere assoggettati tutti i supporti e i dispositivi utilizzati ai fini della registrazione e dello stoccaggio cosiddetto per uso privato, quindi le esclusioni cominciano a non vedersene più, okay. No? Okay. E quindi ecco, questo è molto interessante. Un altro punto fondamentale: raccomanda sempre questa istruzione che nel caso di transazioni transfrontaliere, cioè l'acquisto via internet tipico, sì. I prelievi per copie private vengano riscossi nello stato membro in cui risiede l'utente finale, quindi se ci fossero delle differenze per esempio tra Italia e Gran Bretagna, si applica la legislazione italiana esatto. Se compro qui, sì, sì. Quindi non si capisce neanche onestamente il meccanismo come potrebbe essere, perché io compro dalla Gran Bretagna e dopodiché ci vuole che qualcuno riconosca la SIAE un compenso, quindi il sito di e-commerce sì. Dovrebbe prevedere un aggravio al momento del pagamento solo per la transazione verso l'Italia, come succede già oggi per esempio per l'IVA che viene adeguata di paese in paese, e poi questo compenso dovrebbe in qualche modo essere poi sì. Riversato nelle casse per l'Italia della SIAE, che lo ridistribuisce a valle. Comunque questo sarebbe per neutralizzare o sterilizzare finché si può le residue differenze tra una nazione e l'altra nell'istante in cui sì, sì. Ce ne fossero ancora. Allora, queste, ricordiamo, sono raccomandazioni, quindi diciamo consigli sì. che potrebbero essere utilizzati anche dal nuovo ministro nel momento in cui dovesse decidere, insomma, sì, a breve. Sì, io immagino che sicuramente le parti che saranno più interessate a diversi punti porteranno evidentemente sul tavolo del ministro una poi vedremo insomma se questo ministro, perché naturalmente di fronte al Parlamento europeo l'Europa dice tante cose interessanti, dice anche tante cose che non sono condivisibili, quindi vedremo poi se il ministro è un ministro moderno che capisce com'è l'evoluzione tecnologica, oppure dice beh insomma mi sembra che questo meccanismo funzioni, vada bene, quindi continuiamo su questa strada. Altri punti interessanti: gli usi professionali, che sono uno dei grandi vulnus dell'attuale normativa, quindi quelle che usano supporti hard disk, per esempio per dei data center, le banche, gli ospedali, chiunque, la pubblica amministrazione anche, certo, perché no? Sì. Ecco, qui chiarisce che gli usi professionali devono essere tenuti esenti. Ricordiamo che c'è una sentenza in Corte di Giustizia europea che lo dice già chiaramente, quindi non poteva questo rapporto non fare proprio, certo, certo, certo, questa sentenza. Quindi gli usi professionali devono essere tenuti esenti. Cosa molto interessante e devo dire anche abbastanza giusta, non con un meccanismo di rimborsi successivi, ma proprio devono essere tenuti esenti alla fonte, cioè deve essere possibile per gli utenti professionali fare un acquisto dichiarando la finalità professionale dell'utilizzo e quindi senza vedersi applicati. Sì. Allora, questo è interessante perché attualmente invece il meccanismo è fatto all'inverso, cioè io comunque pago. Dopodiché devo dimostrare che ho un'attività professionale, quindi posso con un meccanismo un po' complicato, anzi non un po', un meccanismo complicato possa essere dimostrato. Un po' come dire, tu intanto paghi una bella multa per eccesso di velocità, dopodiché mi dimostri che invece hai fatto sempre 50 all'ora in tutta la città e dopo ti rendo dietro i soldi, un po' così il meccanismo. Ecco, questa risoluzione poi richiede trasparenza, chiede che ci sia una relazione molto chiara e analitica sull'utilizzo degli importi raccolti, quindi che venga chiarito dove finiscono, che è una cosa che sembra assolutamente giusta. Io onestamente aggiungerei un punto fondamentale che è scappato a questo tipo di analisi fatta dalla deputata Castex, che è il fatto che ci vorrebbe trasparenza anche sulla raccolta. Certo. Bisognerebbe sapere precisamente chi paga, chi non paga, quanto paga a monte, perché è chiaro che se per caso ci fossero, e dico se per caso ci fossero, non sto dicendo che ci siano, ma ipotizziamo che ci fossero, delle società che pagano e delle società che non pagano, le società che pagano di più, le società che fanno un accordo puntuale e pagano di meno, è chiaro che si creerebbero delle condizioni di concorrenza molto sleale sul mercato e quindi ci vorrebbe trasparenza anche a monte, ma già diciamo festeggiamo la trasparenza a valle. Ecco, altra cosa, dispone che il 25%, consiglia, che il 25%, almeno il 25% dei compensi per copia privata non vada agli aventi diritto. Cioè? Non venga ridistribuito, ma venga utilizzato per finanziare arti creative, settore degli spettacoli dal vivo, nonché la loro produzione, quindi vada, dicono tutti, a finanziare lo sviluppo, per esempio per gli artisti giovani. Sì, solo un francese poteva scrivere una cosa del genere. Non capisco perché io, comprando un supporto che possa riprodurre musica e altri contenuti multimediali, debba in qualche modo finanziare la cultura. Io sono per un mercato libero, quindi la cultura è, come in altri casi, per buona parte, non per tutto, business, e quindi uno deve stare sul mercato, ma questo è un grande dibattito tra l'Europa e gli Stati Uniti. E continua a dire che noi finanziamo la cultura, ma poi alla fine i consumatori guardano contenuti americani perché hanno creato un'industria che funziona e fa quello che vogliono i consumatori, non cose che invece piacciono solo agli artisti che le fanno. E comunque, vabbè. Comunque, se il compenso per copia privata fosse una tassa, e non lo è. Se fosse una tassa, questo qui la trasformerebbe in parte in una tassa di scopo. Quindi invece lo chiameremo compenso di scopo. Un compenso che va a finanziare delle attività non legate al motivo per cui viene fatto il prelievo, o meno non legate così strettamente. Misure tecniche di protezione, andiamo verso la fine. Sì. La risoluzione chiarisce una volta per tutte che i cittadini sono liberi di copiare i contenuti posseduti illegittimamente, quindi acquistati. Il che, sempre che tali copie siano fatte per uso privato, va da sé. Sì. Questo significa che le misure tecniche di protezione, le cosiddette protezioni anticopie, eccetera, eccetera, qui usa purtroppo... Sarebbero vietate. No, le misure tecniche di protezione dovevano essere vietate nella prima stesura, poi purtroppo è stato emendato questo aspetto, cioè giustamente si diceva se la copia privata c'è e deve esserci a tutti i costi, non devono esserci le misure di protezione anticopia. Sì, certo. Qui si limita in un molto più, diciamo, sibillino, una formula più sibillina, che le misure tecniche di protezione non dovrebbero impedire né la realizzazione di copie da parte dei consumatori né l'equo compenso dei titolari dei diritti. Quindi bisognerebbe fare protezione anticopia nel rispetto del diritto di copiare, e sappiamo che questo purtroppo non è possibile, a meno che non sia di fatto una copia vera e propria, ma ci sia un sistema di licenze, e torniamo alle licenze, per cui io compro il disco, trovo un codice sul disco che mi permette di scaricare o di vedere in streaming, di sentire in streaming il medesimo contenuto su device. Sì. Però allora a questo punto si vuole il compenso per copia privata, ma parallelamente dovremo andare per forza verso un sistema di licenze. Ultimo punto? Ultimo punto riguarda il cloud. Qui si introduce per la prima volta, in maniera anche qui molto morbida, ma sappiamo che quando questi termini entrano in una risoluzione di questo tipo è come dire, allora lo dice l'Europa, cioè lo dice l'Europa, lo dice poi l'Europa. Abbiamo sentite di cose che ci diceva l'Europa, no? Ecco, non che io sia un euroscettico onestamente, però... Ma però quando ci sono le cose però, ecco, criticabili... Sottolinea che l'eccezione della copia privata dovrebbe applicarsi ad alcuni servizi online, compresi alcuni servizi di cloud computing. Che cosa significa? Significa che così facciamo lo fallire storage... qualche altra azienda europea di cloud computing e poi dopo così dobbiamo comprare dagli americani. Gli americani sono fuori dalla comunità. Però vendono i servizi a noi. Niente, quindi ci fermiamo sul cloud, dulcis in fundo, arriviamo alla fine di queste norme. Ricordiamo che la relatrice, Françoise Castex, si è rammaricata pubblicamente dopo l'approvazione in commissione del testo, che è stata approvata un paio di settimane fa, perché appunto alcuni membri della commissione hanno fatto degli emendamenti che sono stati votati, la commissione ha votato appunto favorevolmente a questi emendamenti, stralciando due punti. Quello che citavi tu prima, quindi la possibilità di fare delle... vietare di fatto le protezioni anticopia esplicitamente questo è saltato, come anche è saltata un'esposizione che depenalizzava completamente il file sharing tra utenti privati. Quindi se era fatto senza scopo di lucro, si diceva il peer-to-peer si può fare, perché tutto sommato è una sorta di compensazione, dice la Castex precisamente, nei confronti dei consumatori che si vedono a pagare un compenso, e quindi d'altra parte la stessa relatrice sentiva il dovere di riequilibrare le parti dicendo va bene, pagate il compenso da una parte, però il file sharing diventa una fattispecie, diciamo, quantomeno tollerata. Certo, no? Che però introduce un elemento che non dovrebbe essere introdotto in questo dibattito, cioè visto che qua stiamo parlando di contenuti legali, acquistati legalmente, sui quali io ho diritto di fare una copia per uso privato, personale, e si dice sempre, perché giustamente è così, che la pirateria non c'entra niente, in questo caso sarebbe stato introdotto un elemento che potrebbe confondere un po' Assolutamente, ma si faceva perché? Perché di fronte alla... Ingiustizia, diciamo così, di un regime di copia privata che è fuori dal tempo oramai, anche fuori dagli usi della gente, si voleva controbilanciare un po' la situazione dicendo il file sharing, quindi la vecchia cassetta che io registravo e ti regalavo, fattispecie che era assolutamente... ritorna a essere una fattispecie tollerata, mentre attraverso il cappellino della pirateria ce l'hanno soltanto quelli che fanno lucro, quindi quelli che vendono che guadagnano denaro dalla pirateria. Ecco, questo concetto comunque non è passato, è stato stralciato, il resto è rimasto là dov'era, e quindi questa visione è, per opinione della stessa relatrice del provvedimento, è sbilanciato. È sbilanciato verso gli aventi diritto a spese dei consumatori che pagheranno, andranno avanti a pagare se queste cose verranno recepite dai paesi membri, eccetera, eccetera, a fronte fondamentalmente di un non servizio o di un diritto che non hanno richiesto. Cioè, la cosa strana, sì, certo, è questa. Esatto. Cioè, ammesso anche che il compenso sia perequato sul valore del diritto, è un diritto che nessuno chiede, e quindi onestamente non si capisce per quale motivo dovrebbe, esatto, essere retribuito. No, comunque, diciamo, quelli che lo chiedono dovrebbero pagarlo. Se io compro una cosa e non mi faccio nessuna copia, non capisco per cosa devo pagare. Benissimo, ricordiamo per concludere che qui stiamo parlando di una sorta di consigli agli amministratori degli stati da parte del Parlamento europeo. Non è detto che poi questi consigli vengano accolti e seguiti così come sono scritti negli articoli che abbiamo così commentato in questa chiacchierata. Vedremo, insomma, anche il ministro Franceschini come reagirà, se insomma capirà che il mondo sta cambiando in modo veloce e drastico, soprattutto in prospettiva, oppure si vuole continuare con questi meccanismi. Gianfranco, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie mille. Adesso, prima di salutarci, diamo la parola a Pierangelo Soldavini, che lavora nella redazione di Nova, il settimanale di innovazione del Sole 24 Ore, che troverete in edicola domani mattina. Pierangelo, benvenuto a 2024, ciao. Buongiorno a tutti. Allora, a che cosa avete dedicato la copertina nel numero di domani? Ma una copertina interessante, visionaria, che parte da un'esperienza che non è così lontana, quella delle automobili senza guidatore, che vanno da sole e si muovono nel traffico senza alcun bisogno di un uomo che stia al volante. È una prospettiva per certi versi un po' inquietante, ma che sta arrivando anche sul mercato. L'interessante, quello che abbiamo scoperto, è che c'è chi sta già pensando a come disegnare le città del futuro piene di macchine che andranno automaticamente. Poi che cosa, come sempre c'è questa pagina centrale, c'è un paginone che, come anche sempre, un po' con la grafica. È molto, molto bello dal punto di vista grafico, in cui sintetizziamo invece una prospettiva molto più concreta, che è un po', possiamo chiamare, il distretto 2.0, il distretto tecnologico, che è l'evoluzione di quello che noi italiani siamo stati molto bravi nel realizzare in passato, e che adesso richiede una trasformazione ulteriore all'insegna della tecnologia e della specializzazione, soprattutto perché l'Europa ci sta chiedendo di creare delle specializzazioni a livello territoriale che non siano più così diffuse come i distretti, dove ce n'erano tante all'interno magari anche della stessa regione, ma sta chiedendo appunto di territorializzare, di trovare delle regioni in cui ci siano delle specializzazioni precise, legate al territorio, legate ai talenti sul territorio, e pronte per essere finanziate. E quello che abbiamo scoperto è che diverse regioni italiane hanno già iniziato questo discorso di innovazione territoriale, puntando su quelle che sono poi le specialità italiane, sì, a partire dall'agroalimentare. Sì. Ma con realtà assolutamente sconosciute. Bene, grazie a Pierangelo Soldavini, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. E noi chiudiamo questa puntata di 2024. Grazie per aver scaricato questa che è la versione podcast del nostro programma. Andiamo in onda il sabato a partire dalle 15, in replica la domenica dopo GR24 delle 23, oppure, quando preferite, anche a pezzetti di 10 minuti al giorno attraverso questo che è il file MP3 della nostra trasmissione, quindi in podcast. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete scrivermi, 2024@radio24.it, oppure potete utilizzare anche Facebook o Twitter. Per alcune cose però non sono sicuramente mezzi adatti ad una comunicazione strutturata e approfondita, nel limite del possibile, nel limite del tempo che abbiamo a disposizione. Bene, torniamo la prossima settimana. Vi ricordo che abbiamo parlato molto poco, abbiamo solo accennato a Yola Mobile, al sistema operativo Sailfish, che è un altro dei sistemi operativi che è disponibile nel settore della telefonia mobile. Questi telefoni vengono già venduti da Yola, che è questa società finlandese, su internet. Li si possono acquistare anche dall'Italia. Abbiamo fatto una chiacchierata sicuramente interessante con Stefano Mosconi, che è il CTO di questa società. Ve la proporremo nelle prossime settimane, perché naturalmente torneremo sui temi del Mobile World Congress. Mica potevamo dire tutto in una unica puntata. Bene, grazie e appuntamento alla prossima settimana. 2024.